America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, emozione ancora oggi per il terribile attacco della settimana scorsa in Francia, emozione per la marcia di ieri a Parigi, per il milione di persone che ha detto no alla paura. Direi che il messaggio dall'America che riassume meglio il nostro stato d'animo lo ha dato George Clooney, l'attore George Clooney, da Los Angeles, quando ha ricevuto ieri notte il Golden Globe alla carriera. Sentiamolo. Today was an extraordinary day. There were millions of people that marched, not just in Paris, but around the world. Ecco, Clooney dice: ieri è stato un giorno straordinario, milioni di persone in marcia per strada, non solo a Parigi, ma in molte città del mondo, cristiani, musulmani, ebrei, leader di decine di paesi insieme, non marciavano per una protesta, ma per un'affermazione, semplicemente non avremo paura, je suis Charlie. Ecco, è stato questo il commovente, devo dire, contorno ai premi della Golden Globe, che è il premio della stampa estera a Los Angeles, miglior film Boyhood e Grand Hotel Budapest rispettivamente per dramma e film leggero, ma domani vi racconterò dei Globe Awards. Oggi vorrei recuperare, per chi non l'avesse seguita in dettaglio, una notizia di venerdì importante, perché ci consente di ragionare di nuovo sulle differenze fra l'economia americana e quella europea. Another strong jobs report in December. Ecco, per chi non avesse visto o sentito la notizia, l'America in dicembre ha macinato altri 252.000 nuovi occupati, con un tasso di disoccupazione che è sceso al 5,6%. Con il mese di dicembre si chiude naturalmente il 2014. E quanti occupati ha creato l'America per l'intero anno? 2,95 milioni di nuovi posti di lavoro, che è il miglior risultato dal 1999. Beh, devo dire, poteva sembrare impensabile anche fino a un anno fa che si potessero raggiungere questi risultati. Eppure l'accelerazione recente della crescita americana, abbiamo visto quel 5% del terzo trimestre, accelerazione resa possibile dal fatto che la combinazione di aggressive politiche espansive, sia monetarie che fiscali, a questo punto ha raggiunto gli obiettivi prefissati, e abbiamo di fatto una stabilizzazione del mercato del lavoro. Un tempo il tasso implicito di disoccupazione nell'economia americana era stato calcolato dalla Federal Reserve intorno al 5,2%, e dunque siamo anche a un passo da uno dei livelli ottimali di occupazione. La cosa che mi colpisce però è che l'America non vuole fermarsi. The decisions we make now can make things even better than that. Barack Obama la settimana scorsa è partito per un viaggio di 3 giorni, ne avevamo già parlato in una delle puntate della settimana scorsa, in 3 stati diversi per promuovere iniziative economiche nazionali, perché non vuole fermarsi, ritiene che ci sia ancora un potenziale di crescita migliore per l'economia del suo paese, soprattutto vuole evitare che ci siano dei pericoli di contrazione, e dunque si è recato sul piano simbolico in 3 paesi, a Knoxville in Tennessee proprio venerdì, dove ha parlato di occupazione, prima a Phoenix in Arizona, dove ha parlato del settore immobiliare, settore che ha fatto da grande traino grazie ai bassi tassi di interesse per la ripresa dell'economia americana, e il giorno prima in Michigan, Wayne County, agli impianti del Ford, dove ha parlato, insomma, del grande ritorno del manifatturiero americano, soprattutto del grande ritorno del settore automobilistico, che da molti nella crisi del 2007-2009 era dato per morto. This morning we found out that in the second quarter of this year our economy grew at a strong pace. Businesses are investing. Workers are building new homes. Consumers are spending. America's exporting goods around the world. Ecco, avete sentito, Barack Obama è stato proprio nella tappa di Knoxville, mentre parlava di educazione, che ha anche ricordato il balzo dell'occupazione in America. 11,2 milioni di nuovi posti di lavoro per 58 mesi consecutivi, con il risultato appunto della settimana scorsa. Io voglio dire, continuo a ripetervi queste cifre che sono secondo me molto importanti, non per dire quanto sia bella l'America, ma per dire quanto è importante che noi ci muoviamo nella stessa direzione, perché abbiamo rifiutato, proprio da un punto di vista ideologico, su spinta della Germania, iniziative espansive come quelle adottate dagli Stati Uniti, devo dire Stati Uniti che premevano perché le adottassimo anche noi in Europa ormai da alcuni anni, e in questo rifiuto ci siamo trincerati dietro l'austerità, come se l'austerità fosse il toccasana per qualunque malattia. Invece temo che l'austerità, soprattutto in situazioni nelle quali ci siamo trovati noi, sia purtroppo all'origine del peggioramento di quella che può essere una malattia piuttosto grave. Ecco, le nostre speranze sono a questo punto nell'azione di Mario Draghi. Non ho dubbi che il governatore, il presidente della Banca Centrale Europea andrà avanti fino in fondo con le sue manovre di stimolo aggiuntivo. Lui conosce a fondo l'America e sa bene quanto il modello americano abbia funzionato. Deve trovare una formula di compromesso per poter soddisfare i falchi, tra virgolette, tedeschi, ma la politica monetaria da sola non basta. Allora, intanto l'America è riuscita a fare quello che ha fatto perché è un sistema flessibile e dunque speriamo che questo 2015 porti le riforme vere, decise, importanti, radicali, di cui abbiamo bisogno, soprattutto sul fronte della burocrazia e dei tagli alla spesa pubblica. Ma ci vuole anche lo stimolo fiscale. Lo stimolo fiscale per ora in Europa non c'è stato. Le misure annunciate da Bruxelles, misure in teoria di stimolo, secondo me sono ridicole, perché parliamo di un netto che non è neanche di 20 miliardi, secondo calcoli recenti pare che sia di 10 miliardi di euro, che poi dovrebbe far leva sulla Banca Europea per gli investimenti e così via, così via. L'America ha stanziato, il governo federale americano ha stanziato oltre 800 miliardi di dollari per stimolare la propria economia. E qui vorrei fare una proposta, e cioè che si cominci a ragionare perché quel famoso tetto del 3% che per accordi europei noi come paese, come Italia, non possiamo superare, sia superato a livello europeo, perché la legge lo consente e dunque si tratta di trovare il consenso politico. America 24. Ecco, vorrei chiudere su una nota ottimistica che riguarda il nostro paese, perché anche se adesso le cose vanno male e anche così, se non riusciamo a uscire da questa stagnazione, qualcuno in Italia riesce comunque a fare le cose importanti a livello internazionale. Parlo di Stefano Pessina, che ha fatto lo scampanellio, vi ho fatto ascoltare prima, lo scampanellio che ha aperto le contrattazioni venerdì al Nasdaq. E che è successo? Che il 31 dicembre è stato ufficialmente quotato il nuovo gruppo Walgreens Boots Alliance, che è un grande gruppo di distribuzione nel settore farmaceutico, dei prodotti di bellezza ma anche dell'alimentare, che opera in Europa, soprattutto in Europa del Nord, in Gran Bretagna e in America con la Walgreens e con Duane Reade, che è riuscito, partendo dall'Italia 30 anni fa, a creare un percorso di fusioni, di acquisizioni, di sviluppo, che lo ha portato a diventare proprio venerdì l'amministratore delegato del più importante gruppo del settore nel mondo. Devo dire, è un primato da non sottovalutare, perché al di là dei dati che riguardano questa società che vi darò fra poco, ci dà un segnale importante. Quello che conta oggi è la globalizzazione e essere parte di questa globalizzazione. Si può essere italiani ma avere un orizzonte di mercato completamente globale. Questo temo che alcune forze sindacali ancora non lo capiscano, non si rendono conto che, riuscendo ad andare al di fuori dai nostri confini nazionali anche con il capitale, si porta lo stesso un po' di crescita anche a casa. Ma vi do due dati su questo nuovo gruppo, perché vi ripeto, diventa il più importante a livello mondiale. 110 miliardi di dollari di fatturato, più o meno quanto Fiat Chrysler Automobile, più o meno quanto Eni, quindi stiamo parlando anche al di fuori del suo settore di un gruppo di primissimo piano. Capitalizzazione 73 miliardi di dollari, di nuovo stiamo parlando di un livello molto simile a quello dell'Eni, però supera tutti, sia Eni che FTA che molte altre aziende italiane, per numero di occupati 370.000 impiegati nel mondo, una presenza geografica in oltre 25 paesi, 12.800 centri di distribuzione al dettaglio, centri tra l'altro molto integrati, perché Walgreens è una catena americana, mi capita di andarci spesso. C'è la componente alimentare, dunque di supermercato, dove si trova di tutto, c'è la componente di prodotti di bellezza e di vari altri prodotti utili magari per la casa, e poi c'è la componente proprio farmaceutica. Qual è la peculiarità di questa operazione? Che oggi il gruppo Walgreens Boots Alliance, di cui Pessina è amministratore delegato pro tempore, perché poi ha annunciato che vorrebbe trovare un altro manager pronto a sostituirlo, non ha attività italiane, o meglio, le attività italiane sono state scorporate e non fanno parte di questa operazione. Uno dei limiti, le rigidità che ci impediscono nel nostro paese di avere la farmacia incorporata dentro un supermercato. Ma il mondo si è già mosso molto in avanti, e non soltanto in Gran Bretagna e in America, ma anche in Thailandia, nelle Filippine, nei paesi del Golfo, in Sud America, dove Walgreens Boots Alliance è presente. Chissà che un giorno non riusciremo ad aprirci anche noi. ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @America24. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, abbiamo parlato più di economia che di terrorismo, ma vorrei tornare ancora una volta col nostro pensiero a quello che è successo a Parigi la settimana scorsa e dedicare la canzone alle vittime di questo attacco orrendo, con una canzone di Rihanna, World Peace, pace mondiale, che secondo le iscrizioni che abbiamo avuto potrebbe diventare il singolo apripista di un intero progetto di nuovo album che sta mettendo a punto la grande cantante Rihanna, World Peace. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Amen.